Euroreportage. Grexit, un'ipotesi d'addio che agita l'Europa, di Gigi Donnelly. Third quarter of this year in the Eurozone, Greece had the fastest growing economy with the highest structural surplus. This spectacular comeback is due to an unprecedented sacrifice of all the Greek people. Antonis Samaras, all'ingresso del Consiglio europeo era il 18 dicembre scorso, il primo ministro greco dice: nel terzo quarto del 2014 la Grecia ha fatto registrare la crescita economica più alta di tutta la zona euro. Questo spettacolare risultato, così dice, è il prodotto del sacrificio senza precedenti del popolo greco. E aggiunge: non permetterò a nessuno di giocare d'azzardo con questo risultato. Il sistema politico greco non permetterà che qualcuno lo faccia. Per questo credo che l'incertezza politica che affligge il nostro paese non durerà a lungo. Così Antonis Samaras, primo ministro greco, lo ricordo, il 18 dicembre scorso. Un saluto a tutti voi, cari ascoltatori. Dunque, nello spazio dedicato all'Europa, parliamo di quella che è già stata definita la Grexit, Grecia exit, uscita della Grecia, l'opzione impossibile, abbiamo titolato, e rifletteremo per qualche minuto sul perché. Con noi questa mattina Vittorio Darold, che ringrazio, collega del Sole 24 Ore. Allora Vittorio, prima domanda secca: hai sentito Samaras, quello che lui dice, l'incertezza politica che affligge il nostro paese non durerà proprio a lungo, non è esattamente accaduto? No, purtroppo non è andata così, perché ci si è messo di mezzo la elezione del Presidente della Repubblica, che secondo la Costituzione greca, nel caso in cui, come infatti è andato al terzo tentativo, non fosse andata a buon fine, la Costituzione prevede che il paese vada a elezioni anticipate e quindi il voto torni in mano all'elettore. E questo era ciò che Samaras non prevedeva. Ecco, anticipate non è, come dire, una parola vuota, così anticipate che sono il 25 di gennaio, quindi stiamo parlando di due weekend, abbiamo un attimo. Ecco, che cosa può accadere, che cosa ci si aspetta, che cosa magari si teme dalla parte di Samaras? Perché quando parla di non accetterò che qualcuno giochi con questo risultato, insomma, non credo si rivolga, come dire, nel mucchio. Sì, Samaras punta sul fatto di non perdere tutto quel bagaglio che la Grecia ha così faticosamente messo in cascina. È riuscito quindi ad avere per la prima volta il surplus, quest'anno prevede di avere una leggera crescita dello 0,6 e naturalmente dopo 7 anni di recessione. Questo quindi sono obiettivamente dei risultati positivi, seppure il paese resta ancora in una situazione difficile, perché ha perso il 25% del PIL e la disoccupazione è al 26% totale. Quindi Samaras invita a non perdere tutto quello che si è fatto. Al contrario, Syriza, il partito, diciamo, di sinistra radicale in testa nei sondaggi, dice: basta con l'austerity e rinegoziamo il debito. Ecco, Syriza è un bel esempio di un partito che fino a un anno fa era praticamente sconosciuto, adesso è diventato molto popolare, però vorrei che tu ci aiutassi a capire di cosa stiamo parlando. Syriza è una confederazione di 12 piccoli partiti che vanno dai trotskisti ai verdi, agli ambientalisti, a una sinistra radicale, quindi è veramente un pulviscolo che improvvisamente, a causa della crisi dei due vecchi partiti, cioè Neodemocrazia, i conservatori, e il PASOK, i socialisti, che si erano alternati per 40 anni, improvvisamente diventa il partito degli scontenti, di tutti coloro che sono stanchi di vedersi il salario dimezzato, se non appunto ridotto in maniera molto forte, le pensioni ridotte, e quindi il welfare che viene in maniera molto forte modificato. Tutto ciò diventa, diciamo così, il carburante di questa impetuosa avanzata che lo fa diventare nel 2012 il secondo partito e alle elezioni europee di maggio addirittura il primo partito del paese. Ecco, ma un'ipotetica vittoria di Syriza significa un'uscita dall'euro piuttosto che dall'Unione Europea addirittura, oppure è, come dire, fa parte delle minacce contro minacce per cercare ovviamente di allontanare l'elettorato da questo partito emergente? No, Syriza è diventato sempre più prudente nel momento in cui si stava avvicinando appunto alla possibilità di diventare primo partito e quindi un partito che poteva governare il paese, ha ammorbidito i toni, quindi non parla più di uscire dall'euro o addirittura dall'Unione Europea, ma semplicemente di rinegoziare il debito pubblico, di aumentare le imposte sui redditi, diciamo così, superiori ai 75%, quindi sopra il mezzo milione di euro, di tassare le transazioni finanziarie, e quindi ha in qualche modo esplicitato che vorrebbe ad esempio reintrodurre la tredicesima mensilità ai pensionati, aiutare le famiglie bisognose, cioè si è articolato con una serie di proposte che sono naturalmente molto più bene accette, anche se resta il dubbio con quali soldi. Siamo di fatto nei primissimi giorni dell'anno, eppure possiamo dire che addirittura nelle prime ore dell'anno esce una notizia, un'indiscrezione da parte di un settimanale autorevole, Der Spiegel, quindi dalla Germania. Sostanzialmente il titolo sarebbe Angela Merkel, due punti, Grecia che esce, perché no? Ora, vorrei chiederti, come dire, leggendola io mi sono posto un paio di questioni. È una piccola provocazione per stanare i greci e dire bene, mostrate realmente fin dove volete arrivare, la cancelliera non c'entra niente, oppure sì? Cosa ne pensi? No, sono sicuramente notizie che filtrano dalla cancelleria per fare pressioni sul ipotetico governo greco appunto di Syriza, che ricordiamolo non avrebbe comunque la maggioranza assoluta sui 300 voti della Camera monocamerale, non avrebbe quindi la possibilità di fare un governo da soli, dovrebbe cercare probabilmente un'alleanza con dei piccoli partiti centristi che ne renderebbero molto più moderata le richieste che sono sempre appunto in questo braccio di ferro tra la Grecia che vuole rivedere il debito e invece la Germania che si oppone tenacemente. Ecco, a proposito di debiti, facciamo un attimo i conti in tasca alla Grecia. Siamo partiti in questo piccolo approfondimento con una voce che dice abbiamo risultati economici notevolissimi. Quindi tutto bene in Grecia? No, assolutamente, il debito è cresciuto, siamo a 330 miliardi, 175% del PIL dopo aver fatto un haircut da 100 miliardi solo sul settore privato. Oggi però c'è una differenza, l'80% del debito greco è rivolto ai cosiddetti, diciamo così, creditori internazionali, quindi Unione Europea, Stati dell'Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale, la cosiddetta Troica. L'80% quindi è un debito verso istituzioni pubbliche, questo rende più probabile un compromesso che potrebbe essere allunghiamo i termini del pagamento, riduciamo gli interessi, via libera per usare dei, diciamo, resti delle passate aiuti, 11 miliardi in un fondo per le banche, potrebbero essere usati questi per investimenti pubblici. Questo è il possibile compromesso che si potrebbe profilare. Ecco, hai citato la Troica. La Troica, chi ha un po' di memoria, insomma, è stata addirittura associata ai nazisti, al Partenone, insomma, è stato proprio il simbolo stesso della rivolta dell'opinione pubblica rispetto a questi sforzi, a questi sacrifici enormi. Ma se i rapporti con la Troica sono sempre stati difficili, in realtà ora possiamo dire che sono addirittura pessimi. Sì, perché lo stesso premier uscente, Samaras, ha rotto i rapporti con la Troica perché chiedeva, questi ultimi che sono sempre in rappresentanza dei creditori internazionali, chiedeva ulteriori sacrifici per 2,5 miliardi e su questo si è arrivati appunto alla rottura. È molto probabile che per una cifra simile si trovi un accordo, perché ricordiamolo, abbiamo messo complessivamente sul piatto 240 miliardi di euro. Sarebbe veramente incredibile che per una manciata di miliardi non si arrivasse a un accordo fra le due parti. Questo è veramente, direi che mi sento di escludere una cosa del genere. Ecco. Accordo dunque in vista e ora in conclusione e ringrazio davvero Vittorio Daroldi di essere stato con noi questa mattina. Insomma, la Grecia è vero che è un piccolo paese di 10 milioni di abitanti, nello stesso tempo, lo abbiamo detto mille volte, magari anche con un po' di retorica, ma è parte integrante della cultura europea. Esiste davvero, è ipotizzabile persino una Grecia fuori dall'euro, dall'Unione Europea? Io penso di no, perché oltre naturalmente al fatto che la nostra cultura nasce appunto in Grecia, è una questione, diciamo, dove il destino dell'Europa si gioca sempre sulla pelle dei greci. In questo momento stiamo decidendo che tipo di Europa vogliamo, se con una maggiore unione fiscale, quindi con una maggiore solidarietà con i bond magari federali, degli euro bond, oppure se vogliamo permettere che un paese esca dal club della moneta unica perché non si sente più di dover pagare circa la metà di tutti i prestiti per interessi. Grazie a Vittorio Daroldi ed ecco perché allora il nostro titolo Grexit, l'opzione impossibile. Io sono Gigi Donnelli, vi ringrazio di essere stato con noi, Pietro Lacorte in regia. Adesso è tutto per il nostro Euroreportage, alla prossima settimana. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.